finale del genere secondo me prima o poi ci tocca. Mi meraviglio. Ascolta, vabbè, adesso io ti lascio che vado in carica, ma ti lascio in compagnia, credo, anche di Claudio, che sicuramente è sistemato, oppure qualcun altro che vuole entrare. Ti rilancio a te, vabbè, poi farai girare. Sì, ciao, buona carica. Quindi anche Riccardo non andrà via. Buon tutto, dai, poi se concede ci sentiamo dopo. Mi è sembrato Gianni doppio rumo, avanti già. Chi è che ha detto break? Sì. Passerà Fabio, buona carica a Sergio, buona carica a Riccardino. Ben sentito Roberto. Ah, scusa, ho sentito un attimino break, però non ho afferrato bene, infatti il segnale è un po' troppo forte, mi sembrava per Gianni, invece di tu, ben sentito Fabio. C'era anche Chiodo, chiamiamolo, io non mi piace chiamarlo Chiodo, io lo chiamo sempre Claudio. Claudio Ramuroso che stava facendo Maruccio, avanti Claudio, ci sei ancora? Ieri era perfetto, bellissimo, tutto qua, detto, non tocca nuda, buoni come dice Claudio, no tocche se mettici un chiodo, una puntina di zene, invece mi... Purtroppo di nuovo i gracchiamenti di modulazione. Aspetta, faccio un'altra chiamata, se risponde, se no riprendi tu di Fabio. Avanti Claudio, vai tu Fabio, vai. K, RAS in controllo di stazione sicuramente. E, niente, vabbè, sono già andati a mangiare, sì, padre e figlio. Sì, c'era Riccardino, penso che siano andati insieme, non credo che il padre vada a mangiare da solo, come norma si mangia tutti insieme. Ok, non c'è nessuno, riprendi tu Fabio, io ho mangiato la pizza già da qualche minuto, una mezz'oretta, è già tutto fatto, ho già fatto cena e dolce pure. K, sintonismo anche in questa, anch'io pizza, presa logicamente la vaccando dei volumi. Tu dirai, ma sei andata di punti a prendere la pizza? Sì, vado di punti a prendermi la pizza. Dove vai tu? Allora, stando a Rigolosi. Lo conosco benissimo, da Marcello Luzzo, l'ho anche allenato. Mitico Marcello. Marcello è Ignazio Carletta e siamo anche diventati amici. E come si mangia, devo stare. Sì, guarda, devo dire, non è che ci sia andato tantissime volte, però qualche volta ci sono andato, ma già fa roba buona, Marcello, già in gamba, e giocava da noi, da ragazzino, poi quando facevo i tornei me lo chiamavo sempre, quando allenavo lo mettevo come era nelle colonne portate, era un bravo ragazzo, poi il figlio, il piccolo, come si chiama, Samuel, e mi sembra che neanche un altro di figlio, lo stesso giocavano da noi, dei ragazzini. Sì, a casa, simpatico Marcello, una persona estrosa, è che non deve collegare niente, perché ogni volta che tocca qualcosa mi arriva una telefonata e devo smontare tutto. No, perché? Guardate. Aiuto, dai, ne ha combinato tante, con quelle cose di Sky, con le casse, allora io piano piano, filo a filo, ho ripristinato l'amplificatore Pioneer che hanno lì, ho tutto smontato, sistemato, cambiati i derivatori, gli spinocchi, insomma. Marcello qua, è presente come fare le pizze, così fai i collegamenti. La Marcello è sempre stato a modo suo un personaggio, è un tipo particolare, unico per certi versi. Sì, sì, per la serie, lo amo, lo odio, no? Io ne accorgo le parti migliori, a me è troppo simpatico, mi è veramente simpatico. Poi se sbaglia il collegamento, se fa danno, per me non è un problema, glieli faccio io, capito? Va bene così, per me può collegare quanto vuole, tanto poi alla fine faccio io e smetto a posto tutto. La Marcello ce la conosciamo da quando era ragazzino, proprio ragazzino, perché lui è di lì punti, è nato lì, la squadra nostra era di lì, e per cui si è fatto tutta la trafila dai piccolini, da piccolo sino a giocare con i più grandicelli. E comunque ti ho pensato, perché stavo facendo un lavoro su un camper, sto mettendo un pannello solare su un camper, e a un certo punto in mezzo a documenti eccetera c'era una radiolina piccolina, l'ho vista e niente, era caduta per terra, la volevo mettere a posto, ho visto che c'era un rigo di acido delle batterie, roba. Cosa c'era, non ho capito? Un segno di acido da comparto batterie, una radiolina piccolina, così sì, un po' grande, digitale, l'ho acchiappata, c'era la padrona che fa, ma come la vuoi riparare? Ho detto, ma si è dimenticata le batterie dentro, poi buttaci tutto. L'ho preso, l'ho provato a casa, ho pulito, l'ho fatta ripartire e in questo momento sono ancora a bocca aperta. Digitale addirittura. Ascolta, si chiama, visto che c'è davanti qualcosa, Silvercrest SWED 250A1, te lo ripeto, Silver Crest, tutto attaccato, e la sigla è SW, come Empoli, D come Domodossola, 250, spazio A1, fruga. Ma tu vuoi sapere una cosa che ce l'ho io con la radiolina? Non ci posso credere, ma è un gioiello. Allora, il modello adesso me l'ha detto, ma velocemente non ho memorizzato, però tu l'hai sentita in cuffia con la radiolina a funzionare? Ma hai capito che c'ho le cuffie appese, uno sì, una no, perché devo ascoltare te. Allora, io la notte, siccome io dormo poco, mi sveglio molte volte la notte, alle 4, alle 5, dipende, io ho la radiolina nel letto, piccolina, bassissimo volume, già impostata su una radio sportiva, perché ascolto sempre Clarifo e Questioni di Sport, e danno tutto, le registrazioni di tutte le, di tutta la giornata, degli ultimi 3 giorni, tanto di lì c'è solo commenti, informazioni, interviste, eccetera, eccetera. Io tutte le notti, quasi tutte le notti, dai, non dico, metto con la radiolina lì, ma c'è una bella ricezione, tu non so se l'hai vista, c'è la versione che ho io, la mia è abbastanza recente, ce l'ho un paio di anni questa roba. Quante bande hai se vuoi doppio? Allora, di bande ne ha diverse, aspetta che te la prendo, te lo dico in diretta, scusa. Che cappa, io ce l'ho davanti, eh. Allora, la mia non è marchiata Silver Crest, però è uguale, identica, perché devo comprare la Silver Crest, adesso mi ricordo, la mia si chiama Radio U, vabbè, si chiama, il modello R108, c'ha 500 memorie questa radio, vabbè, non le ho mai provate, la memoria, c'ha una specie di tastierino, e tu, di numerici. Negativo, semplice, avanti e indietro di scan, memorie più, memorie meno, il tasto per memorizzare, il volume più o meno, poi vabbè, anche le funzioni radio sveglia, clock, sleep, così. Allora, questa che c'ho io probabilmente è una versione più evoluta, c'ha il regolatore di coso, di una specie di preamplificatore di antenna, c'ha band FM, MW, SW, LW, banda aerea, e c'ha il DSP, il DSP c'ha questa che c'ho io. Cazzo, pure questa qua, e come funziona bene, cioè è rapportata all'RZ1 tra i 5 e gli 8 MHz, è molto più pulita, è senza antenna, cioè con la antennina. Poi c'è la scansione lenta o veloce, cioè che c'è un doppio comando, c'è l'uscita USB, vabbè, la mia è la nuova, però la Silver Crest, forse c'è un'altra proprio marcata Silver Crest, una più economica, allora, questa l'ho presa, no, non 2 anni, forse non ce l'ho neanche 2 anni, un annetto ce l'ho, ma tu la devi sentire in cuffia, è stereo tra l'altro questa cosa, anche se c'è un altoparlantino, ma c'ha un suono, una spaziosità di suono allucinante, cioè sono rimasto a bocca aperta, poi come la tocchi si accende, si illumina, tipo le faceva tanti anni fa la Sony, che costavano esorbità, non so se te le ricordi, le vendeva la GBC. K-RICF, mitica serie ICF. Sì, quelle lì, vabbè, erano altri tipi di apparati argentati, questa rimane grigio, grigio scura, c'è anche l'attacco per l'antenna esterna, ma tu vedi come riceve in sintonia, è perfetto. Poi la cosa che mi è piaciuta, è impressionante la qualità audio, ma ti posso garantire, è eccezionale, cioè sembra che stai ascoltando hi-fi. Sì, K, questa è monofonica, credo, in effetti, veramente, in effetti non sono, sì, adesso non è che in effetti, guarda. Devo passare tutte le 6 bande SW, e giustamente adesso non ho sentito niente, perché anche sì, se già sentire qualcosa, no, ma tutta separazione 104 sì, probabilmente monofonica in FM, cioè, però la sensibilità che ha in SW è vicinante. Guarda, in bande basse non l'ho provata sinceramente, però c'è anche il coso, il come si chiama, il passo di coso, puoi fare, mi sembra, di 10 kHz o di 50 kHz, c'ha due passi di sintonia, proprio. C'ha l'allarme, il lock, vabbè, c'ha il codice per non farlo toccare, poi cosa c'ha questo, la cosa bella, questo sistema DSP di coso, per ridurre il coso digitale, il processore digitale per ridurre i disturbi. Sì, K, no, questa qua sta andando, nonostante sia importante, c'è anche un sterratino, perciò campo di un poco, qua la quando l'ho spostata, prima era un metro, però sto ricevendo in questo momento sui 7.205, ci ha fatto da 5 questa, ma è una tariffa che costa 10 euro, io ho frugato, guardato, cioè 10 dollari costa questa cosa. Anche io, mi sembra, io l'ho pagato, vabbè, io l'ho pagato un po' di più, io l'ho pagato in euro, guarda, non ti voglio dire, mi pare 39 euro, una cosa del genere, 49, intorno a meno di 50 euro comunque, però ti posso dire, siccome ne avevo visto dei forum, parlando proprio di questa radio, che sono iscritto in un gruppo, ne avevano parlato molto bene, ho cercato su internet, siccome c'erano due versioni, e poi vabbè c'era quella più economica, probabilmente quella che c'hai tu, quella con meno funzioni, dai, senza la tastierina, eccetera. Ti posso dire, sono soldi spesi bene. Sì, guarda, io stanotte ti faccio un bel giro segnandomi qualcosa. L'ho confrontato, ti ripeto, con l'R31, però ti posso dire che tra i 6 e i 9, cioè, poco meno di 6, poco più di 8 MHz, riesce a essere più pulita l'R31, anche perché l'R30 quando lo uso, mi sono fatto una spaccatura io, riesco a togliere fuori bene come tocco un po' l'accordatore, insomma, gli sbaglio un po' la capacità, se batte il rumore, viene fuori il livello, l'audio è pulito, però devo accordare, ritoccare, fare, eccetera. Questa qui c'ha due tasti. Se per il tutto che è appena appena 5 kHz, se lo tieni premuto per un secondino va in scansione automatica, si ferma dove si ferma l'LZ1, né più né meno. L'LZ1 ci ha attaccato l'accordatore e l'antennone che ho fatto io, artigianale, di quelli della sensibilità, con le tire, eccetera, autocalcolato al millimetro. Questa qui c'ha una cassa di antennina che, devo dirti la verità, l'ultimo pezzo è anche rotta. Ma pezzo, no, scioccato, da Ecco, ciao Fabio, ciao Roberto, ciao Claudio, se c'è. Ho fatto in fretta la carica. Già me ne sono accorto, cosa hai mangiato? Un morso camminando. Aspetta, facciamo vedere se è rientrato Claudio, che stiamo monopolizzando. Claudio, ci sei? Speriamo che non abbia fatto danni, Claudio, perché è uscito per qualche secondo, poi track, stavo uscendo male, avrà detto, ora sta uscendo male, cambia apparato. Ok, riprendi Fabio, tu, e poi farai girare. Campo di casino, si chiama Fast Charge, carica veloce. Stai attento perché lo stomaco funziona come le batterie più lentamente le carichi e meglio funzionano e più durano, e più le carichi velocemente e più ti hanno problemi, perciò io ti consiglio la carica lenta. E vabbè, c'era poco oggi, stasera la casa non offriva molto. Che bella questa cosa, che ogni volta fai commenti così su commenti di casa, molto carina. Molto carino, non offriva molto, sicuramente c'era un bel da mangiare, solo che tu magari hai detto no, questo non lo voglio, questo non lo voglio, io mangio quello là, solo quello e poi te ne sei andato, ecco. No, praticamente c'erano le verdure, c'erano zucchine e carote, e quelle me le sono mangiate in piatto, ho fatto anche il bis, e poi ho mangiato la salsiccia e praticamente il pecorino di campagna. Se non avessi mangiato la pizza poco fa come Roberto, in questo momento aveva pulito in bocca, però vabbè, io te lo puro questo ragazzino, dai. No, l'ho fatto ridere poi l'altro giorno. Oggi c'è Apple Pepe, mi ricordo quando ero bambino, oggi mamma mi fa, e poi ci, no mamma, no, ma molte volte ce le faceva Apple Pepe. Ciao, ti tratti bene, dai, sono contento, Riccardi, già non ti manca, poi qualche animaletto già ce l'avete di lì in casa da allevare, magari qualcosa vi dà pure. Sì, qualcosa, qualcosa servono. No, vabbè, galline non credo, non ne ho visto. Animali che ti possono dare, no, vabbè, dai, non dico ammazzarli perché non fa. Ci avete i cavalli, però i cavalli vanno bene dove stanno, no? Qualcuno li fa crescere e poi se li fa fettine. Don't touch my horse. No, sto scherzando, naturalmente io li amo gli animali, non fa. Diciamo, carne io ne mangio poca, non perché sono vegetariano, assolutamente no, anzi, perché mangio a quintali il pesce, però carne quasi niente, proprio carne sottili sottili, bianche, oppure me le devo fare io, se devo mangiare salsiccione o cose del genere, me le devo fare io, però tutte carne di maiale, carne grassa neanche a vedere, però pesce ti mangio tutto, dai. Però no, non so, anche se mangio poca carne non sono vegetariano, mi rifaccio col pesce. Ok, vai tu Davide, mi Davide, chissà ma cosa Davide fa. Grazie Antonio. No, io mangio di tutto, di tutto di più, di tutto di meno, un po' di tutto, però non schifo niente, non metto niente da parte, sono onnivoro, fa sono belli, neanche dire che sono maiali. Quindi non bisogna invitarti a cena, te. Massimo una pizzetta da Oggiano in via Cataluccio. No, negativo, invece poi proprio invitarmi a cena è una... uffa, non mi viene la parola, ma adesso dove l'ho messa? Io deve essere seduto qui per terra, aspetta che la cerco. Sì, sarà qua sotto. Dico, è un affare, invitarmi a cena è un affare perché ti mangio quello che c'è e ne mangio anche poco, figura. Quindi non ti posso invitare a casa che ci fosse il frigo e la dispensa? Oh, oh, il contrario di qui. Mangio pochissimo, mangio poco e quello che c'è, per me va benissimo. Per me il cibo è benzina, non provo chissà quale piacere, capito? Ah, io pensavo il contrario, infatti ho detto ti costa più farti un abito, come stavo, mi invitate a cena che farti un abito. A pranzo. Eravate insieme, avanti di capito. Ah, scusate, colpa mia. Stavo dicendo, il fratello di mamma, il fratello di mamma, mio zio, Gianfrancesco, praticamente quello che mangiamo in una settimana lui se lo mangia a pranzo. Ecco, di buona forchetta, ma pure di buon cucchiaio, buon coltello, buon tutto, così è. Proprio buon tutto, anche con le mani, non c'è problema. Alla grande, roba. Ah, tu uguale. No, io sono molto selettivo, di pesce già mangio tutto, non mi creo problemi, ma di altre cose io sono un po' viziatello, dai, molte cose non le mangio, dai, però quelle che mi piacciono le mangio in abbondanza, mi devo controllare, dai. Ah, che bello. Mi Antonello. Hai visto? Fatti di suini. Eia, che bello fare il suino, di notte. Dai, avanti di capire, saluta Antonello. Ciao Antonello. Ah, poi come sta Antonello? Ti fa questi respiri, sembra di quelle chat erotiche che c'eravamo da sola. Scuola Falcone. Io faccio del fobbino di quelle cagate che hanno. Ogni giorno, ogni settimana mi arrivano più di 15-20 fotografie. Sono cercato di togliermi tutto qua addirittura, mi lascio solamente guarda Instagram e basta, perché Facebook è diventato una bucaria. Adesso purtroppo da tutte le parti ci sono le schifezze. Ok, vediamo un po' se nel frattempo è rientrato Claudio da Muro, speriamo non gli abbia creato nessun problema. Avanti Claudio, ci si... è scomparso di colpo, è entrato con tanto entusiasmo ed è scomparso. Ieri non abbiamo più lasciato lui perché era perfetto in tutto, di segnale e di cose, di radio. Ehi, che peccato, usciva benissimo ieri, proprio pulito, pulito, pulito. Confermo, stavo andando benissimo e poi da un giorno all'altro dalle stelle alle stalle. Senti Riccardino, sempre meglio, diventerà la torre di controllo di Sassari. Mica la torre in ascolto. Ma verrà spodestato da Riccardino, ti farei un traliccio di 35 metri, direttive, cubiche, eccetera, eccetera, sfascerai tutti, non fare parlare più a nessuno, deciderai tu a chi far parlare. Senti, stai dimenticando la Delta Luxus. Ah, quelle sono giocattolini, tu ti metterai il ponte ripetitore sopra in cima dove c'è il cancello, ti piace un'antenna da 30 metri con le direttive e annienti tutto, non parlerà più nessuno quando attacchi tu, per 10 canali saranno tutti quanti sblatterati. Ciao per 5 kg, mega, secondo cosa usa? Ah, metto lineare da diciamo 5 kW così per accendere, poi quando inizia a sollevare può arrivare anche a 15. Esagerato. Ma ne avevi visto quegli americani che hanno quegli amplificatori allucinanti, che non hanno problemi di potenza, antenne di blu, con boom di coso, di 15-18 metri, fino alla 26. 4 valvole di diametro di 80 cm, altre 1,5 m, collegate in serie. 3 contattori dell'Enel, insomma, qualcosa del genere, la vedo dura, eh. Ma che contattori? Lui c'ha il pozzo petrolifero sotto, lo produce lui l'energia, c'ha la raffineria, ci mette il coso, la raffineria si fa la benzina, ci mette quei gruppi grossi da 2 megawatt. E mi sa che gli conviene, secondo me, quanti watt vuole sparare, mi piace la faccia giù la corrente. Oh, di Avega, qualche scemicello che ha potenze, vabbè, di radioamatori già ne conosco un paio che hanno oltre 4 kW, ma c'è qualche CB che la tira anche su, me ho sentito di gente che ha anche più di 5 kW, non qua, su in continente. Antonello adesso vuole salire, vero Antonello? Sì. così tanto. Bisogna... Non so neanche io se la fretta, adesso quando lo proviamo vediamo cosa dice fuori, con quella gigiola, penso che tutte quelle valvole ci sono dentro, già lo vogliono bene. Ecco, ma è entrata ventosa, sì, Antonio, si sente tutto. Alle ultime due, cambiare il trasformatore, secondo te, cosa ne esce? Aspetta, a me le ultime due valvole o il trasformatore per pilotarle? Servono altre due valvole, così facciamo una cifra bella tonda, effettiva, poi SSB lasciamo perdere. Però il trasformatore va cambiato, il trasformatore è piccolo già per quello che è, figurati se aggiungo valvole, casino. Io lo so. Il problema è quello, è stato costruito così già direttamente dalla fabbrica, quindi io non ci possiamo fare niente, ma già... Non posso buscare un aggeggio di quelli. C'era Giovanni Freccia, c'era. Io il primo giorno che l'ho usato, cazzo, come sono andato a schiacciare, come c'era quel tipo di pulsantiera come quello dei televisori, te lo ricordi? Che schiacci, eccetera, eccetera. Ogni volta cazzo, mi incendiava le lamelle. Allora ho dovuto cambiare, la metterla nuova e cazzo, quello già pilotava bene la verità, quello, era un bel lineare quello, quando lo usavo mamma mi diceva, guarda, è strano che si spegne la luce, del salone mi ha fatto, non so niente io, ho detto. Io mi ricordo che da te un giorno ho staccato la corrente, ho fatto un casino per andare a staccare il contattore. Zitto, guarda, erano altri film. Zitto, che a un certo punto c'era uno che mi stava ruotando intorno e stavo uscendo con un vaso per attirarmelo, no? Piano, come l'ho visto sotto, sono andato a terra, ho fatto tre fischi e ho staccato la corrente. Guarda, bello è trovare un bel 750, B750, guarda. Da tipo se da auto, un B750, si cambi le resistenze. E vabbè, quello adesso quando Mario Massi mi porterà quell'aggeggio, quel bestione, te lo faccio vedere com'è. E quello era modificato. Una volta che li cambi i finali ti posso vedere che non si canta messa con quello. Quando usava lì l'altra voce a casa sua, ha pilotato l'ultimo, quello che avevo io, con 680, 800 tondi, dovevi vedere tu da... In quella zona non ci va per... c'era Gio Maria che non ne poteva più, coso, poi altrettanto, a Castelsardo sai quanto arrivava? Io quel periodo lì uscivo con Franco California, tu figurati, mi ha accompagnato, ho fatto Castelsardo, lo bagno, e Mario a casa sua, era una cosa allucinante. Cappa, penso che io voglio uscire con 4 watt, fatti conto, vabbè, cosa ne dici, conviene che usciamo con 4 watt? Adesso sta ritornando di moda nella demato di QRP con mezzo watt, escono. Io mi facevo divertimenti con Salvatore Maestrale, ce andavamo in FM proprio a cercare di uscire il minimo possibile, ma 300 milliwatt, massimo 500 milliwatt in cose, in FM ci spostavamo un pochettino, ma ci facevamo certi QSO tranquilli, senza disturbi, puliti, lui era ottava giù dove abitava o abita anzi Gigi Vulcano, è abbastanza lontano, gli anni saremmo 7 km penso, con mezzo watt usciva la grande, ma addirittura mettevamo il coso, lo shift, per sentire, trasmettervi da una parte e ascoltarvi dall'altra, proprio per essere più tuoi possibile. Bello. Io ho preso il DMR perché è un bau, ero in camper, a un certo punto ho fatto fuori dalla custodietta, gli ho fatto una sacchettina bella in velluto, in maniera tale che lui sia dentro, c'ha ancora le plastichette sul display, tutto figo, te lo graffi, no? Canale 7, perché c'è un altro piccolo PMR, come ho premuto importante, l'orologio che ci ha preso il camper, che c'ha anche la temperatura, ha suonato, ha fatto un beep e ha cambiato la temperatura da gradi Fahrenheit, da gradi Celsius a gradi Fahrenheit. È entrato dentro il coso. Cazzo si date, fa beep, mi giro, lo vedo acceso. Ma cosa è successo? Io sta signora ha toccato. Mi avvicino, guardo tutto, sembra tutto a posto e poi leggo F. E che temperatura c'è? Allora, io ho visto un video, adesso non mi ricordo la frequenza esatta, dei telecomandi delle aperture delle porte delle macchine, più o meno sono standardizzate, con uno di questi Baofeng, questi ricevitori, come si chiama, trasmettitori che tirano 5 watt, mi sembra, 3 watt, adesso non mi ricordo, si avvicina alla macchina, tac, come schiaccia la porta, si aprivano tutte le macchine nel raggio di 10 metri. Cappa, ho visto qualcosa di simile. Sono bellini quegli apparecchi però, proprio bellini bellini, cioè io quando ce l'ho in mano me lo guardo, penso quando ero ragazzo e cosa ci voleva per riuscire a parlare così vicino di casa, cioè niente, le mani in testa, guarda dove siamo arrivati, antigatta. Ma quella è la cosa più pirata che possa esistere, perché quelli trasmettono anche su bande assolutamente pericolose, cioè che proprio sono tutti aperti, no, puoi disturbare chiunque se vuoi con quell'apparecchio. Oh Roberto, dimmi. Cioè io sto pensando sempre, comprando apparecchi, ma quando non ci sarà più nessuno cosa me ne farò? Vabbè, la collezione, però non potrò più parlare con nessuno. Ti metti le registrazioni e te le ascolti. Sto scherzando, dai, qualcuno già ci sarà sempre, dai. Magari adesso d'estate vedrai che un po' di gente scomparirà, però ci sono sempre gli storici, qualcuno già rimane. Perché devo sparire, Riccardo? Spiegami. Non lo so, come finisce questa storia, tutti in vacanza, tutti se ne vanno in vacanza, in camper, in campeggio e non ci sarà più nessuno a parlare. No, vabbè, succede come accade a Sassari ogni anno. Sassari si dividono tra Chiesa e Santa Mona, perciò le compagnie, vabbè, al tempo le compagnie si fermano, noi c'eravamo la crescetta di Via Unessole, le compagnie un po' si sfaldano, però poi a settembre ritorna uno, ritorna l'altro, si ha voglia di rivedersi, capito? E così succede in baracchino uguale. Ormai abbiamo superato gli apparecchi, ormai ci siamo rifatti le stazioni, abbiamo visto che c'è qualcuno e continueremo, credo, a parlare. A meno che io non vada ad oltre, mi devo prendere una direttiva di 24 metri per parlare con voi. A proposito, ti sei ricordato, se capiti, ma mi avete a ricordare di quell'antennina che abbiamo parlato l'altro giorno, ma detto quando vado a Olbia. Cazzo, ci ho pensato anche stasera, è che non sono potuto andare ad Olbia. La cosa è un po' complicata, ci dovevo andare, tutto organizzato eccetera, solo che poi tutto è saltato, perché ci sono un po' di problemi a casa, capito. Però appena arrivo ad Olbia devo sapere due cose. L'ho lasciato il 1000 della Autobox perché ho scoperto che ha un sintonizzatore sulle bande, tre bande, e quello lo volevo utilizzare per girare, e il suo antennino, quindi sono anche segnati nel telefono. Ah, c'è lo shuttle quindi tu? Cappa, lo shuttle 1000 è per il periodo il Voxon Imola, è presente? Allora, Shuttle 1000 lo conosco bene, il Voxon Imola dovrei vedere, adesso non mi viene in mente come è fatto. Quello, aspetta, aiutami un pochettino, come ce li hai? C'ha anche l'onde medie o solo FM? Dovrebbe avere anche le onde medie, non mi ricordo, però adesso ti posso dire una minuta aspetta. Quello che mi ricordo bene è che c'ho lo Smith all'est. No, allora non ce l'ho presente questo. Aspetta, come è il Voxon? Dimmi il modello, sto cercando di memorizzare. Ce n'era uno che c'era i LED di coso, dell'intensità di campo, però non mi ricordo esattamente. Rossi erano, dei LED rossi, cioè. Rossi o verdi? Guarda, se l'ho in garage, l'ho visto un paio d'ore fa, l'ho intravisto lì, però volevo dirti che, allora, prima cosa che ho trovato, ti ricordi che stavamo parlando di quelle radio colorate che avevano quelle parti asportabili e perciò gli potevi cambiare la banda, è presente quelle piccoline portatili? Sì, il Tanga mi sembra che si chiama, sì, dall'autobus, c'era a seconda del colore, c'era per le onde medie, onde lunghe ed FM, c'era il verde per la FM, rosso e arancione c'era. Allora, quella che ho giù invece, della Voxon, si chiama Ancona Roma 8003. Cercala e addirittura ne troverai tra le foto una che ha i bordi rotti, anche la mia ha i bordi rotti, però abbiamo fatto una piccola modifica, quanto vero, quanto sembra, banda 8700-104, il pirulino che sta come sintonia non è originale, è nero, però la prima foto che ti viene è quella lì, proprio quella, ed è diversa da quella che mi dicevi tu. Sì, no, quello che dicevo io. E poi ce l'ho molto presente, nel senso, diciamo, non era proprio mio, ma era di un amico, era come ce l'avevo io, si metteva nella 500, l'avevamo messa in un pezzettino e ci davano questo frontalino, cioè questa cosa che la toglieva, e poi c'era la basetta dove c'era un amplificatore, lo inserivi dentro e poi lo stesso apparecchio, te lo potevi portare appresso, una specie di astuccetto, poco più grande di una batteria 9 volt, come ti ho detto, e più a casa ti davano una specie di cubo che la potevi tenere dentro lì, dentro questa specie di cubo, che c'era l'altoparlante, alimentatore interno e una piccola antenna a filo, la potevi usare anche a casa a 220. Ma l'ho visto, l'ho guardato e mi ha incuriosito quando mi ha detto questa cosa. E sono così anche un po' a buttare sull'autoradio. Se tu fai Wikipedia Autovox, c'è la storia dell'Autovox, se arrivi fino alla Shuttle 1000, ti dice che la Shuttle 1000 è la prima autoradio al mondo, a sintesi di frequenza diretta, cioè pensa quanto eravamo avanti con l'elettronica in Italia e guarda come ci siamo ridotti. Se poi ti segui anche la storia, scopri che tanto per cambiare la Autovox è morta grazie a Prodi, capito? Vabbè, comunque noi siamo un po' monopolizzato. Antonè, tu come sei autoradio? Allora, scusa, mi ero notato un attimino che mi hanno chiamato, senti, l'ultimo pezzo del passaggio non l'ho sentito. Sì, ti dicevo che la Shuttle 1000 è la prima autoradio al mondo a sintesi di frequenza diretta, no? Al mondo è, cioè, Pioneer non c'era arrivata, Alpine non c'era arrivata, Nakamichi non c'era arrivata, Clarion era in fase, capito? Mentre la Autovox faceva l'elettronica di altissimo livello. Penso un pochino come eravamo avanti con l'elettronica in Italia, ma con altre aziende, anche automobilistiche per esempio. Guarda come siamo adesso e facci i conti che l'Autovox, se ti vedi la tua storia, praticamente è morta grazie a Romano Prodi. Pensa tu. Sì, ne hanno fatto morire poche di aziende, quello lì, non parliamo di altri tipi di industrie. E perché la Vox, non ti ricordi la Vox, era all'avanguardia mondiale, faceva dei televisori da paura, a parte la linea, che erano bellissimi come linea, eccetera, eccetera, veramente. Infatti, ma avevamo prima di tutti l'Olivetti, cacchio, l'Olivetti, l'IBM non esisteva neanche, la tecnologia sui coso, i primi computer era data l'Olivetti, poi li hanno fatta morire a coso. L'Olivetti che era il fiore all'occhiello dell'Italia, a livello di Fiat. Cappa, guarda dove siamo ridotti. Ci facciamo le cose in Cina, ce le commercializziamo con i vecchi marchi famosi, anche l'Autobox negli anni 2000 se ne è stata in roba cinese, qualche televisore, qualche apparecchio radio, ho visto per esempio che c'è qualche DAP in giro con un marchiato Autobox, ma non si produce più niente. Per farti capire che livelli è questa industria, no? Cosa è successo al fatto dell'Autobox, in questo momento questo è il nuovo stabilimento dell'Autobox, sono arrivati ad avere anche 2600 dipendenti, per darti l'idea. Ora c'è un deposito di rifiuti, è proprio la storia delle aziende italiane. Se non siamo al campo automobilistico, se no ti racconto, ci sarebbe da tagliarsi nelle gambe per certa gente che ha distrutto l'Italia, marchi storici tipo l'Alfa Romeo, tipo la Lancia, che la Lancia era l'avanguardia nel mondo, c'era dei brevetti mondiali che li hanno copiati tutti, non parliamo di Alfa Romeo, sapete la prima macchina ibrida del mondo che è stata? Nessuno se lo immagina. No, ma questa cosa l'avevo già sentita. L'Alfa Romeo 33 è stata la prima macchina che poi l'hanno bruciato, il progetto circolante già pronta, tutto quanto, pronta a commercializzare, e poi l'hanno boicottata perché lì c'erano troppi interessi troppo grandi. Se tu cerchi Alfa Romeo 33 ibrida, poi te lo vedi, adesso stanno vantando le Toyota, le Nissan, tecnologia, cacchio, l'Alfa Romeo negli anni 70 ce l'aveva quelle tecnologie. Quando così la Lancia, c'ha dei brevetti, la Lancia, che gli altri, la scocca indipendente, prima erano tutti sui telai le macchine, la prima macchina al mondo a scocca indipendente, scocca portante come quella di adesso è stata la Lancia, la prima macchina che ha messo il sistema di freni a disco anteriori e posteriori è stata la Lancia, il primo sistema di coso di inventato la Fiat, il sistema Common Rail, cioè abbiamo delle invenzioni noi a livello mondiale che ce ne hanno copiate tutti, cacchio. Eppure cacchio, purtroppo quando c'entra in mezzo la politica, con la persona che hai nominato tu ha distrutto l'Italia. Guarda, fatti capire come è stato l'argomento, posso dirti che a parte l'ho fatto 5.000 segni azione, il motore considerato per tanti anni miglior progetto al mondo, no? Per solidità, per costruzione, per ordine, eccetera, eccetera. Ho avuto una in fila all'altra, 5, 174, 2000, così tutto benzina. Se si conosce quella macchina, allora veramente ero artista, perché l'Alfa era qualcosa. Senti anche la Giulia di oggi, senti, apri il cofano e guarda cosa c'è dentro, lasciamo perdere. No, guarda, essenzialmente automobilistico è una vergogna totale, abbiamo distrutto quello che ci avevamo di cosa, ma anche in campo aeronautico, di tutto, noi eravamo capaci di costruire qualunque cosa, hanno disintegrato tutto, Di Marchi, per dire, tu dirai l'innocente non era niente, però cacca che l'innocente aveva la sua fetta di mercato, la Lambretta aveva fatto le macchine, le mini, eccetera, tante anche se quelle erano su licenza, ma era un marchio che andava alla grande, hanno fatto morire la Lancia, non esiste più, un marchio glorioso che ha dato le cose, ha sfidato tutto il mondo nei campi automobilistici, basta parlare della Lancia Rally, cosa ha fatto, che non ci credevano i tedeschi che correvano con la Lancia, con l'Audi A4, e quella era la macchina a due ruote motrici e li passava, l'hanno dovuto fermare, ho visto un video di quello l'ingegnere Lombardi, quello della Lancia, che è un genio della meccanica, è venuto questo ingegnere del coso, meccanico della coso, si è coricato di nascosto sotto, dice non è possibile che questa macchina sia a due ruote motrici, ma avevano dei brevetti, il sistema a turbina e allo stesso tempo il compressore volumetrico, cose allucinanti, hanno fatto delle cose da fantascienza, eppure hanno fatto a morire. Noi ci siamo ridotti, pensa che la macchina che diceva Rilli prima della Lancia Delta, io l'ho avuta, l'Audi 90 Coupé, solo che nel Rilli aveva tutte turbine KK, il mio era un aspirato 1008, però benzina sempre, non era niente né elettronica, non era neanche carburatori, cioè era una macchina che era in grado di fare la mia 1008 benzina, vista coi miei occhi, sul contachilometri, stavo guidando io, tornando a Cagliari quella notte, oltre il fondo scala era a 260 km all'ora, non dico come si guidava quella macchina, era bestiale, micidiale, eppure la Lancia Delta l'ha passata. Sì, no, la Lancia, purtroppo noi quando abbiamo, adesso grazie a Dio ci sono le piccole azienducce a carattere familiare, stanno costruendo delle cose molto innovative in certi campi ristretti, diciamo, molto specialistici, ovvero ogni tanto qualche progettino anche in campo hi-fi, acustico, eccetera, eccetera. E vedo anche, c'è il migliore amplificatore del mondo, progettato da un ingegnere italiano, quelli SPE, non so se li conosci, a transisto che c'ha 2 kW. Questo lo puoi alimentare sino a 100 watt, ma tutto è automatico, cioè ti commuta automaticamente la banda di trasmissione, il ROS e tutto quanto, tutto computerizzato, costa una barca di soldi, pare costi sui 6.000 euro, ma è il migliore amplificatore trasistorizzato del mondo, 2 kW, pesa, mi sembra 25 kg, tutto digitale, cioè ti indica la potenza, la temperatura di esercizio, tu li puoi mettere o 10 watt o 1 watt o 100, lui automaticamente regola tutto, ti regola la banda di trasmissione, non devi accordare, non fai niente, schiacci e vai, istantaneamente, c'è un circuito brevettato, istantaneamente regola tutto, ho visto la prova di quella con l'amplificatore, io sono rimasto fantascienza, a me questo già è più, penso una quindicina di anni questo apparecchio, è la fantascienza ancora adesso, come la Magnum, quello ingegnere Frignani che ha costruito quegli accordatori che sul brevetto glieli fanno gli americani, ce lo stanno riproducendo loro, perché ancora un progetto di 40 anni fa è ancora all'avanguardia. Siamo con le pezze al sedere, perché non abbiamo più azienda, siamo dipendenti da marchi tipo Whirlpool per avere un po' di azienda, poi a Taranto c'è una cosa che inquina, che vogliono tutti prendere contributi allo Stato e poi la mollano, poi abbiamo come aziende la Italia che aveva la possibilità di essere qualcuno nel mondo, invece ce la stiamo pagando noi per tenere dei fermi, non c'è continuità territoriale con la Sardegna, figurati, questi vogliono girare il mondo con l'aereo e poi alla fine non colleranno neanche l'Italia, cioè siamo proprio con le pezze al culo, è una cosa, guarda, incredibile. Se torniamo all'autobox, per dire quanto eravamo avanti sotto alcuni aspetti e indietro sotto altri, siccome la politica era un po' lenta, no? Non approvavano praticamente delle direttive in campo tecnico per trasmettere in Italia a colori, però l'Autovox già produceva televisori a colori, doveva venderli nel resto del mondo, perché in Italia anche se vendeva televisori a colori il segnale era solo bianco e nero, capito? Siamo proprio una massa di coglioni. Sì, lo so. Poi perché la Miva, sapete così, televisori Miva, economici, grande marchio, super affidabile, in Vattamuli. Tutto per questioni politiche. Aspetta, facciamo rientrare a Riccardino. Avanti a te Riccardo. Sì, vado avanti io. E comunque sono qui in ascolto, sto ascoltando i problemi in Italia, vabbè. Continuate, sono qui. Sì, ce ne sono tante di cose. Facciamolo anche di un marchio sardo, anche se non è proprio il padrone, deve essere sardo. Non so se ti ricordi la Nuova Marina. Cos'era la Nuova Marina? Anche il sardo, oggi c'è ancora delle tracce della Nuova Marina, ne parlano anche tutti. Allora, adesso fortunatamente è stato ripreso in coso. Avevano delle tecnologie a livello mondiale, c'è anche di coso. I navi suisse americani acquistavano i battelli pneumatici della Nuova Marina in Kevlar con delle certificazioni militari, adatta resistenza, eccetera, eccetera. Adesso fortunatamente stanno riprendendo a coso, perché quando era morto quello Carlini, il proprietario, purtroppo era mezzo andata male. Adesso l'hanno risollevata, l'azienda sta costruendo mega comuni, ne ho visto uno di 21 metri quest'estate, mi sono spaventato, una cosa, cioè tu non lo vedi davvero, non ti rendi conto di che cosa era quella lì, cosa c'aveva di motorizzazione, cosa c'aveva di tecnologia, di estetica, di bellezza, tutto in tech, una cosa da paura. Ma su tutti i campi noi siamo all'avanguardia mondiale, cioè non parliamo campo automobilistico perché realizzare Ferrari, Lamborghini, Maserati, eccetera, eccetera, siamo sempre i migliori prodotti automobilistici, la migliore design, siamo i migliori al mondo in assoluto. Non c'è un campo che noi possiamo dire che ci sono delle persone che ci insegnano qualcosa, trovamene uno che ci possa dire sì, sono meglio di cose, i migliori ingegneri mondiali sono sempre italiani in tutti i campi, infatti sono ricercati in tutto il mondo, i migliori medici, cioè abbiamo le migliori menti, la migliore cultura, la migliore qualunque cosa, siamo sempre stati nel mondo ai massimi livelli. Purtroppo abbiamo un sistema politico che peggio di questo non esiste, ci abbiamo dei pupazzi al comando che distruggono tutto, quella persona che hai nominato tu, Prodi, io ho seguito un documentario su lui, cosa ha distrutto dell'Italia e cosa ha svenduto dell'Italia, delle aziende sane, ricche, eccetera, ha disintegrato tutto per colpa sua. Non parliamo poi campo motoristico anche di motociclisti, cioè di cosa abbiamo di marchi famosi che li hanno fatti morire, ma male qualcuno sta ritornando in auge, cioè, ma cacchio, abbiamo distrutto dei marchi famosi, adesso guarda, la Ducati l'ha presa in mano la Volkswagen, perché cacchio, non poteva morire la Ducati, la Laver, l'MV Augusta, la Benelli, cioè marchi, la Gilera, la Guzzi, cioè avevamo marchi, nessuna casa al mondo, nessuna al mondo aveva la varietà di marchi che avevamo noi. Gilera, io ho avuto SP01, che è morto, NSR Honda, è proprio la concorrente, ma non ce n'era, come l'SP01 veramente, non ce n'era, anche lì, ma senza contare per esempio le cose, no, mica noi abbiamo inventato la Vespa, ma ti rendi conto, vogliamo parlare della cucina italiana, di come nel Mediterraneo noi abbiamo capito come funziona il mangiare, io non lo so. E poi siamo quelli che poi vanno a leccare il culo all'Europa, per favore, abbiamo questa malattia, dateci i soldini per favore. È la cosa che è più vergognosa, cioè noi che possiamo vivere di rendita, infatti c'è Putin, ha detto voi siete il paese più ricco, allora lo sapete voi, non so se la gente lo sa, l'Italia è il terzo al mondo come quantità di oro, tu quando devi produrre moneta devi avere d'oro, delle riserve aurifere, il primo paese al mondo sono gli Stati Uniti, di gran lunga superiore a tutti gli altri, il secondo la Germania, il terzo l'Italia, l'Inghilterra che noi pensiamo che sia chissà che cosa, la Francia, carta, eccetera. Li facciamo 10 a 0, noi abbiamo tre volte le riserve auree del coso, dell'Inghilterra, che è un paese diciamo abbastanza evoluto. Teniamo presente che la maggior parte delle riserve auree nostre ce le hanno portate via i tedeschi durante i nazisti, durante la seconda guerra mondiale, e un decimo solo siamo riusciti a recuperare, gli altri non si sa che fine hanno fatto, e sicuramente in mezzo a quelli dei soldi tedeschi, l'oro tedesco c'è in mezzo all'oro italiano. Per dirti cosa possiamo fare noi, che chi comanda il mondo è l'oro, cioè tu se c'hai riserve auree puoi fare quello che vuoi, perché devi poi stampare moneta. Purtroppo ci siamo legati a questo cacchio di comunità europea che ci ha mangiato tutto, ci stanno spremendo i tedeschi e adesso anche i francesi, e se non stiamo attenti ci stanno spremendo anche gli spagnoli. La cosa più brutta, i paesi che erano al terzo mondo fino a 30 anni fa c'era la dittatura, o 40 anni fa c'era la dittatura, e non sapevano manco cos'erano, che uscivano con le carrozze, con i carruzzi in coso in Spagna. Adesso stanno arrivando quasi a farci concorrenza. Purtroppo è una questione politica, perché per esempio l'Olanda, che si è opposta a darci questa misericordia che tanto abbiamo chiesto con questo favoloso Presidente del Consiglio che non abbiamo neanche eletto, non si capisce come sia arrivato lì. E comunque l'Olanda si è opposta, l'Olanda campa di paradisi fiscali per grandi aziende, perché anche la Fiat sembra che paghi le tasse in Olanda, non le paghi in Italia, tanto per farci capire, Google invece pure, e così via. E poi dei cannoni che si vanno a fumare, i nostri ragazzi lì che possono entrare e fumare sul cannone quando vogliono, capito? Cioè questa gente qua si mette i piedi in testa a noi, questa gente qua decide su di noi, questa gente qua poi alla fine se in Sicilia producono un tot di arance in più gliele fanno schiacciare, noi il latte lo dobbiamo buttare. C'è qualcosa che non torna, Robert, secondo me i nostri politici hanno interessi fuori dall'Italia, perché non è possibile. Guarda, io mi auguro non succeda la rivoluzione, però per certi versi ci sarebbe voluta una bella rivoluzione, mandare via tutto e iniziare a zerare tutto e partire da zero, via tutta questa mondetta, questi corrotti, cacchio dalla magistratura alle cose politiche, destra o sinistra, certo, tutto mondetta, rifatto tutto da capo e ripartire da zero, e vedi come si risviluppa l'Italia. Questo coronavirus per certi versi ci ha fatto un po' ricredere e capire cosa vuol dire l'Italia rispetto ai paesi esteri, perché c'era un sacco di gente convinta che l'Europa ci desse una mano, ma lascia per, non sanno quanto versiamo noi, quanto, lo sapete quanto ha versato l'Italia negli ultimi 10 anni come fondo monetario? 176 miliardi di euro ha versato, ogni anno non so quanti ne versa, mi sembra intorno ai 15-18 miliardi di euro all'anno versa, per cui i soldi che ci stanno dando loro sono soldi che abbiamo già dato noi, questi famosi del MES eccetera, è una biliarda a dare un mondo. Poi non parliamo dell'Olanda, che di lì ci sarebbe da ridere, perché di lì vengono i cinesi, io ho un amico, mi ha raccontato di questi fatti che sono veri, quell'amico che ti ho detto che lavora in Cina, c'è un'industria abbastanza grossa, comandata dal governo cinese, le hanno dato tutto, lui produce una calcolatrice ad esempio, adesso è in campo elettronico, facciamo l'esempio della calcolatrice, lui lo assembla quasi totalmente, poi questa roba arriva via nave a Rotterdam, gli mettono una lampadina, un interruttore e ci scrivono progettato e cosa è prodotto in Europa, e non pagano i dazi. Ma fatto per capire come il discorso dell'Olanda è la più grande truffa industriale del mondo. E qualcuno ha fatto sbaglio? Boh, non ho sentito nessuno. Adesso vado a bermi un goccio d'acqua. Continuate voi che mi è venuta a 7 a forza di parlare. Avanti, Riccardo. Sì, ho capito, ti è venuta a 7. Diciamo che ho capito che lui non è che beva alcolici, perciò non è questione di birretta. Non lo so. Beh, spero che stai bevendo la birretta al limone. Tommy, la birretta è per Pomponio. Pompo, birretta? Ah, dimmi. Stavano due cose, il telefonino. Qui sto bevendo una birretta con calma, perché siamo tutta la sera, guarda, ero a Natalino. Per la parabola c'avevano tutto un casino, abbiamo comprato la parabola, l'illuminatore era in corto, cazzo, quindi girava a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, a destra, non entrava mai con niente, capito? Fabio, scusa, avevo quello strumento, la facevo in 3 minuti, traduce subito lo strumento se sono problemi con l'illuminatore, te lo segnava subito. Fabio. Ciao, Fabio. Massa, sono in Dubino, birretta ce la sta bevendo. Qual è la tua birretta, davvero? Io sì, in questo momento la sto bevendo. Ma Roberto di birretta, eh? Ma cosa mi giuro? Lo sai che mio figlio al 14° compleanno siamo il giorno di compleanno siamo andati a bere, a mangiare una pizza, io, lui la mia ex ormai compagna. Cosa pensi Alex? Ma non lo so, una Coca-Cola. Non è che ti vuoi bere una birretta. Non lo so, perché non voleva farlo davanti a me, capito? Ti ha dato birretta, dai. E allora ti ha fatto la foto con la birretta, l'ha pubblicata su Facebook, è deficiente. Ah, ho capito. Capito che lui era grande che stava prendendo la birretta, ma guarda che stupido. Ma hai finito, sei stesso con la birretta. La foto che mi hai mandato tu, ho capito. Metti su Facebook. È che abbiamo preso una birretta così, perché era il tuo compleanno. E lui, no, vabbè, ripetevo la foto, ma è deficiente. Vabbè. Sì, a come lo di foto su Facebook con la birra ne ha un pezzo, vero lei? Sì, a lui, anche senza Facebook lui. Quel periodo lì non c'erano i telefoni come ci sono adesso, ma c'erano i telefoni di Piri. Se avessi fatto la fotografia quel periodo lì che avevo appena preso per alcolizzati, davvero. Ma te li ho chiesto giù? Sì, quando venivi in Vedizzetto, te lo ricordi? C'era la flotta dei CB, c'era. Tutte le macchine parcheggiate sotto e tutti dentro al bar. C'eravamo i tavolini per conto nostro, partevamo da quello di fondo fino ad arrivare quello vicino alla porta. Io mi ricordo che passavo in moto lì, vedevo le macchine con le antenne, mettevo il lato dentro e tiravo dritto, anche perché lì davanti ci lavorava mio zio. E anche adesso potrebbe venire per questo. E te li posso offrire la birra? No, aspetta fuori, Santarello, non si preoccupi. E tu se vuoi favorire, gli ho fatto il pranzo, gli ho detto. Un cazzo mi sono gastato a casa. Quando erano le 2:30, mi ha fatto sapere che se l'antenne se ne sono andate. Ma come l'ha compresa, Giuditto? Tanto che birra volevano quelli che portavano via la stazione, anche il filo. Poco la portare via ce l'avevano. L'unico che aveva l'apparecchio l'effetti 250 omologato ero io. E ce l'ha anche scritto. Lui mi ha fatto il verbale, 80.000 lire. No, poi è stato alla fine il surfatto me l'ha letto. Dice, guarda, dice, la soffiata è partita, dice, dal tuo palazzo, di fronte a te, mi ha detto. Allora ho capito subito chi era, hai capito? E quindi poi abbiamo parlato assieme, è stato veramente in gamba, sia lui sia il dottor Vizzi, me lo ricordo sempre questo. È stato l'unico di Cagliari che è venuto a Sassari, mi ha invitato a bere pure, sono l'altro, dice scusami, dice Antonio, dice per quello che ti è successo, adesso capisco. Poi dice, vabbè, non voglio fare né nome e cognome di quei due scoglioni, mi ha detto, che venivano da te. Che uno, vabbè, uno è in pensione, l'altro già sta ancora lavorando, a quanto sembra. Sono Ebra. Esatto. E io. Vabbè, ammettilo, eri di birretta. No, non è bello, non sono, diciamo, in certe occasioni sì, ma sì, io quando sono sempre bevo acqua, fresca, bella al frigorifero, e basta, poi ho fatto altre cose. Bevi l'acqua fredda con la roba calda. Mi sono giocato io, mi sono mangiato la pizza calda e mi sono bevuto la birra, ghiacciata. Sai come mi ha messo tambagnato qua a casa, tu figurati. Poi una volta mi era capitato con la Lisa invece, e mi fa zio, usciamo assieme, e detto, guarda, ceno, ma l'avessi fatto. Come sono arrivato lì, mi sono bevuto due birre. Mi ha voluto accompagnare mia nipote a prendere il tavolo, non si voglia calzarmi dalla sedia, figurati, blocco di stomaco e mi ha sponzato. Ma i mali domani mattina non erano né mal di testa né niente, però da quel giorno ho detto basta, della ghiacciata congelata al coso, così non le bevo più, me la fresca sono fatta, me la bevo normale. Sì, deve stare attento, no, c'avevo sete perché la pizza che ho mangiato era abbastanza salata, c'erano capperi e altre cose, mi è venuta una bella passata di cosa, vabbè, no, io roba ghiacciata ci sto attento, soprattutto se hai bevuto roba calda, guai, la cosa peggiore che possa succedere, perché una reazione chimica a caldo freddo ti scoppia il coso, lo stomaco. Ok, Riccardi, avanti a te. Non ho capito cosa, Roberto? No, mai bere roba calda con roba ghiacciata o viceversa, se hai bevuto roba ghiacciata mangiati qualcosa di caldo, è assolutamente negativo, pericoloso. Ok, vai Fabio, riprendi. Caffa, no, quella pizza era tranquilla, me l'ha già addosso, vabbè, se conosci la pizza di Marcello, che è stata in portale, no? Era tranquilla. E poi io bevo sempre una Coca-Cola con la pizza. Invece Carletta ha allungato questa bottiglia di birra un po' grande, mia madre fa, dice no è troppo grande, e allora ti faccio compagnia, ho bevuto anche un bicchiere di birra, no? Che alla fine non ci sta male male con la pizza, ma preferisco la Coca 100 volte. Sì, sì, anche se ho roba gazzata cerco sempre di evitarla, però se è buona la Coca-Cola, c'ha i suoi limiti, nel senso bisogna stare attenti, stavo vedendo certe cose, è meglio stare attenti con la Coca-Cola, però è buono, il gusto anche se è pericolosa, tossica, cancerogena, rugginosa, ti fa qualunque problema, però il gusto della Coca e della Pepsi sono unici. Ho visto un accento importante, sbaglio. Boh. C'è qualcuno sotto, avanti 10. Ma non so quanto dura a me? No, e che tipo se la vuoi a te? Oh, Antonello in forma, o Claudio, come al solito, con i suoi 4 Watt, oppure tu arrivi e basta, cioè non c'è niente da dire, arrivi e boh. Vabbè, già siamo abbastanza vicini, almeno a te, cacchio, sarà difficile farmi superare, vicino a te. Aspetta che adesso metto su un tempo un po' meglio. A proposito, Antonio, mi ho preso i tiranti regolabili, gli occhiali, i tasselli, ho preso la ralla per mettere i tiranti sul faro, eccetera. Però mi sa, Antonio, che devi venire a darmi una mano, perché se non altro a togliere quel faro da solo non posso farcela, faccio danno. Va bene. Se non soffro di cose, attacchi di epilettici, già non c'è proprio problema per quello, bisogna che mi costruisco una specie di cosa fatta a V, tipo cornetto, capito, in modo da poter agganciare quell'antenna in come si chiama, e poi mano a mano che tu tagli, in modo che scenda insieme al paletto, capito? Tutto io. Però prima devo vederlo, vedere come se no lì mettiamo un coso in line, un tirante, quello che glielo agganciamo e io tiro e te ne la butto in terra. Intanto se c'è cade sul palfetto a fianco a me. Per quello già non ci dovrebbero essere problemi, forse lo dico modo. Uno di questi giorni se ne muovono, io ci voglio sapere un po' com'è questo palo che mi stai dicendo, così lo guardiamo assieme, no? E dicevo come lo buttavo giù, così almeno c'hai il campo libero. Ascolta, ma c'è la regolazione nel microfono dell'amplificazione? Di questo microfono qua sì che c'è, perché Alesce. C'è beccato con la busta di patatine, che stai schiacciando la busta di patatine quando fa. Imparato. A quanto ce l'hai al massimo? 9. A 10 ce l'ho, sto parlando 20 cm da microfono. Lui saletta l'ho dato a Giovanna perché stavo uscendo male con l'altro microfono, capito? Poi vabbè l'altro baracchino, lo sai, ce l'ha Fabietto, quello famoso che non si sa quante watt dia, se era a mezzo, se era a 50 milliwatt, questo non lo so, adesso vediamo con Fabietto di fare, ho trovato lo schema quello vero e proprio, dove fa la bonifica sotto, perché si fa sotto, non si fa sopra, io pensavo si faceva sopra, invece è sotto si deve fare, sotto lo stampato, quindi tocca fare un casino, mi tocca togliere il coperchio di sotto, fargli questi ponticelli e aumentargli i watt. E poi questo VR4 devo cercare in grazie. ti avevo mandato uno schema sulla modifica un paio di mesi fa, fatto dire fuori 4 watt, perché con le impostazioni che ci sono lì per avere anche l'FM, purtroppo in AM ti dà 1 watt, se no, cambi impostazione, cambi praticamente essendo multistandard, quindi ci deve essere farlo come in Polonia, come farlo come in Germania, eccetera, e per avere i 40 canali con l'AM a 4 watt tocca fare quella modifica del servizio. Se guardi bene le foto che ti ho mandato su WhatsApp ci dovrebbe essere tutto lo schema della modifica. Me l'ha mandato Fabietto ieri sera, che è molto più chiara di quella che mi hai mandato tu.